prima di seconda. You as an insect, mimic yourself. You as an insect, mimic yourself. You mimicry, you as an insect, mimicry, mimic yourself. Warum machst du das alles? Doch so viel Arbeit kannst du doch im Photoshop machen. You as an insect, you mimic yourself. Just mimic sinks on the table. You. evolutionary speed is sometimes fast. The creatures mimic the packages, and you as an insect, mimic yourself. I Refractarios, allarmati della situazione Metropoli dai loro tre compagni, stanno riflettendo se fosse il caso di restare su Vesuvio o allontanarsi ulteriormente. Le condizioni meteorologiche però sembrano andare incontro ai ribelli, perché da qualche giorno il vento sta soffiando verso nord e quindi dalla parte totalmente opposta rispetto a dove si trovano loro. La situazione è molto pericolosa a Nazero 13 e non tanto per i posti di blocco dei Tarspok che potrebbero essere evitati con un po' di attenzione, ma perché la nube tossica ha fatto già centinaia di vittime anche nella stessa metropoli. Carcelia è pensiero comune tra i ribelli. Coram, il lupo, uno dei Refractarios più anziani che ha già vissuto gran parte della sua vita in montagna, è più preoccupato per quello che potrebbe accadere nel carcere Fognario. Se la nube tossica si è fermata sulla città per qualche giorno, c'è pericolo che possa essere entrata nei tombini e i sequestrati sarebbero un pericolo. Quelle merde lì lasceranno morire asfissiate nelle loro celle, e lì dentro c'è anche Valerie, oltre alla tantissima feccia. Cosa e come si può fare? Siamo in una quindicina se aggreghiamo qualcun altro che è rimasto in città, e non sono numeri che possono permettere un attacco a Carcerio, aggiunge Tina, mentre accarezza il suo cane pastore tedesco Orsa, che ha un passato di lotta diversa da Refractarios venendo da gruppi universitari comunisti, ma che invece con un tono molto pacato e realista scoraggia qualsiasi azione contro il carcere, almeno per il momento. Nulla. Sarebbe come fare il Don Quixote contro i mulini a vento. Carcelia è una fortezza sottoterra, ha una sorveglianza così tignosa che ognuno che vi accede viene controllata da testa ai piedi, anche se sono Tarspok. Io ci sono stato per qualche tempo e vi assicuro che è un mondo a parte. Quella gente non si fida nemmeno dei propri colleghi, ed ognuno che mette piede in quel cesso di posto potrebbe essere un probabile nemico. Questa è la mentalità che regge in piedi Carcelia, questo è il lavoro che negli ultimi 10 anni ha fatto quello schifoso di Carl Erit. Ha ragione Aki, afferma il lupo. Un attacco a Carcelia potrebbe avvenire solamente con una sommossa generale, mentre così metteremo a rischio solamente le nostre misere vite libere. Vuol dire che dobbiamo aspettare che il resto dei morti viventi si svegliano da sonno per distruggere quel lager di merda? Aggiunge Arni con un tono seccato. Non sono rincoglionito ancora a 50 anni, non aspetto nessuno che si svegli, ma Carcelia è un altro discorso e bisogna essere realisti, conclude Coram con tono altrettanto seccato. Tra il refrattario scala il silenzio, tutti sembrano pensare a qualche soluzione, ma effettivamente ognuno di loro è consapevole che non sarà per niente facile trovarne anche mezza. Anche una piccola azione potrebbe essere nociva per i sequestrati, perché l'Erit la farebbe pagare a loro, pur di metterli contro Valerie. Intanto è quasi sera, il buio sembra una coperta che avvolge il Vesuvio tenendo a riparo i ribelli. Il canto degli uccelli notturni fa compagnia a Mark che dopo la piccola assemblea va a sedersi sulla solita terrazza che affaccia su tutto il golfo e la Nazero 13. Dopo una mezz'oretta viene raggiunto da Aki, che non riesce a dormire e quale ha con sé una bottiglia di vino ed una canna pronta per essere accesa tra le labbra. I due tracannano il vino dalla bottiglia mentre fumano silenziosi con gli occhi rivolti verso la metropoli. Beatrice sta tornando a casa dopo aver girato tutta Nazero 13 senza aver trovato Alni, ma la cosa che la rende più tranquilla è che oltre al suo amico non ha trovato nessuno dei Refractarios, nemmeno nei luoghi dove si incontravano di solito. Il titolo di giornale in bella vista davanti ad un'edicola rassicura ulteriormente la ragazza argentina. Nazero 13, i Refractarios spariti nel nulla, nessun ribelle trovato nelle case abbandonate durante l'operazione dei Tarspok. Con il calare del buio, gli elicotteri dell'ospedale e i vigili del fuoco hanno ripreso a volare sull'area nord. I loro fari illuminano la zona fantasma, animata solo da qualche fiamma che ancora arde. Ad un certo punto, uno dei fari degli elicotteri illumina le finestre di un palazzo. Da una di queste si notano le sagome che si muovono all'interno di un appartamento. Si tratta di sopravvissuti che sono rimasti in trappola nella propria casa. Uno dei detrattori all'interno dell'elicottero di pronto soccorso, non potendo comunicare via radio con gli altri mezzi volanti, fa dei gesti con le mani per far capire agli altri che bisogna intervenire immediatamente. Il palazzo ha un tetto grande, ma non si può rischiare di atterrarci sopra perché non si conosce la stabilità. Quindi l'elicottero si porta a circa un paio di metri dal tetto e cala la scala di corde dal sottopancia, da dove scendono due dottori che indossano tute bianche con maschere antigas. A seguire i due dottori sono due vigili del fuoco che scendono dal proprio elicottero, anche loro con abbigliamento adatto alla situazione. Quest'ultimi portano con sé delle asce che servono a sfondare le porte dei vari appartamenti nel caso non si erano rimaste bloccate. Si sentono molte urla mischiate ai lamenti dall'altro lato della porta che accede al tetto. Evidentemente gli abitanti di quel condominio hanno visto gli elicotteri avvicinarsi ed hanno pensato di salire sul tetto per chiedere aiuto, ma non riescono ad aprire la porta. «State indietro!» urla uno dei vigili del fuoco. «State indietro che buttiamo giù la porta e vi salviamo!» Uno, due, tre, finché al decimo colpo d'ascia i cardini della porta cedono. Nemmeno il tempo di guardare oltre quella porta e i quattro uomini vengono praticamente inghiottiti da una folla inferocita. Thank you. E questi erano Tito in Tarantula con il brano After Dark dopo la lettura di Nazero 13. Lo ricordo che oggi la diretta è un po' speciale perché praticamente anticipa quella di domani in cui ci sarebbe stata solo controinformazione e musica, ma recupera anche quella di lunedì prossimo che non ci sarebbe stata con la lettura. Quindi oggi diretta d'azione con controinformazione, soprattutto lettura di I Sabotatori di Edward Abbey e musica ovviamente. Ricordiamo gli indirizzi utili per radiazione: radiazione@disici.org per la mail, per chi vuole mandare scritti, comunicati, materiale da diffondere attraverso la pagina download di radiazione. Qualcuno l'ha avviato ultimamente, lo potete vedere anche sul sito, dopo se ne parlerà. Per mandare critiche, soprattutto critiche e critiche qualche complimento ogni tanto, se vi scappa un complimento o un consiglio sui libri da leggere su radiazione. Invece radiazione.org è il sito di radiazione dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata, dove potete ascoltare la radio attraverso il lettore flash player che trovate in sidebar o attraverso il banner che trovate ogni giorno della diretta, dove potete riascoltarvi le vecchie dirette d'azione, insomma, dove potete anche scaricarvi un po' di materiale attraverso la pagina download. Niente, non mi preoccupare, era una telefonata, il telefono che mi trovava in tasca era una telefonata che mi stava arrivando e l'ho chiusa. Allora, come dicevo, allora per oggi a controinformazione, soprattutto la lettura di Sabotatori di Edward Abbey, con cui inizieremo subito dopo il prossimo brano di Deadbolt Voodoo Tracker, con anche una breve anticipazione della diretta precedente, del racconto precedente con Marcello. Drives amongst the truckers like a mambo snake. Your CB crackles and you hear a break. Fellow driver, can you see the road? He makes you a zombie and steals your soul. Carnies and kobolds, eh? I'm calling this name Voodoo Trucker. Carnies and kobolds, calling this name Voodoo Trucker. Ghost lights from a semi's dark ride. From the devil's Jimmy, there's no place to hide. When coyotes wail from the dark shoulder, I saw him scowl at me from a truck stop in Boulder. That's too bad, Boulder, that damn umbrella. Carnies and hobos calling his name Voodoo Trucker. Evil the wicked calling his name Voodoo Trucker. Might be in Hollywood conjuring up a demon with some star, but prefers travelers in the broken down car. They say his rig is a midnight black, jerk aerated with bones and a red smokestack. The carnies and hobos, they call it his name Voodoo Trucker. Carnies and hobos, they call out your name Voodoo Trucker. Voodoo Trucker. That's Voodoo Trucker out there. Allora, ritorniamo dopo pochissimi giorni questa volta a seguire le vicende dei Sabotatori, questo romanzo, grande romanzo di Edward Abbey. Abbiamo presentato un po' i protagonisti nella scorsa lettura, tutti quelli che daranno vita poi alle azioni del libro. Siamo in quella zona d'America che qui a Radiazione abbiamo già ci è già capitato di attraversare, raccontando al principio di tutto le avventure del Palero Pantera nella zona mineraria degli Stati Uniti, nel profondo degli USA, e paradossalmente, sorprendentemente, ci ritroviamo nello stesso spazio, ma chiaramente in un tempo diverso. Adesso i personaggi che abbiamo presentato, di cui confesso mi sfuggono i nomi, ma li ritroviamo adesso che cominciamo a leggere, perché stanno dando vita a un tema che vedremo anche attraversare la giornata della diretta d'azione odierna, che è la cospirazione degli zoccoli di legno. C'era quel barbone vagabondo sulla spiaggia, una barba animalesca, tozzo, massiccio, malevolo, il suo veicolo a motore carico di armi esplosive. Quel barbone non faceva niente, non diceva niente. Quel barbone guardava e loro lo ignoravano. L'aiutante di Smith non si fece vedere, né prima né dopo. Smith allestì il suo gommone da solo, masticando carne secca. Spedì la sua ragazza Paige con il camion a raccattare i passeggeri che arrivavano con l'aereo quella stessa mattina. Il barbone guardava. Al lavoro finito probabilmente avrebbe chiesto se c'era qualcosa da fare per lui. Il volo 96 era in ritardo, come al solito. Alla fine emerse da un banco di nuvole, tossendo nel cielo, si inclinò per la virata e atterrò nel vento sulla striminzita pista di Page, limitata ad un'estremità da una linea elettrica ad alta tensione e dall'altra da una rupe di 100 metri. Il velivolo era un bimotore a reazione simile a un pezzo di antiquariato. Doveva essere stato costruito nel 1929, quel famoso anno del crack, e da allora sembrava essere stato ridipinto diverse volte, come si fa con le auto usate che vengono ritoccate prima di essere vendute all'angolo della strada. Qualcuno l'aveva dipinto di recente con uno spesso strato di giallo, che tuttavia non era servito a coprire completamente lo strato verde sottostante. Se i due lati del velivolo erano allineati piccoli oblò, dietro cui apparivano i volti bianchi dei passeggeri che guardavano fuori, si facevano il segno della croce e muovevano le rabbia. L'aeroplano deviò sulla pista e si affacciò faticosamente sul piazzale. I motori fumavano e brontolavano, davano dei ritorni di fiamma, ma fornirono energia sufficiente per portare l'aeroplano quasi fino alla zona di carico. Qui i motori morirono e l'aeroplano si fermò. Il bigliettaio, controllore di volo, funzionario responsabile e facchino, si tolse le cuffie di protezione e scese dalla torre di controllo all'aria aperta, abbottonandosi la patta di pantaloni. Fumi neri rimasero sospesi intorno al motore di destra dell'aereo. Dall'interno giunse un ticchettio. Un portellone venne aperto e abbassato, mulinando una manovella, e si trasformò in una scaletta. L'hostess apparve dall'apertura. Il volo 96 scaricò due passeggeri. La prima a scendere fu una donna, giovane, bella, con l'aria arrogante, i capelli scuri, lucenti, le arrivavano fin sotto la vita. Era vestita non troppo, compresa una minigonna che lasciava scoperte due gambe abbronzate, splendide. Cowboy, indiani e missionari mormoni, funzionari governativi e altri indesiderabili che bighellonavano per il terminal la fissarono con occhi affamati. La città di Page, Arizona, 1400 abitanti, comprende 800 uomini e ogni tanto 3 o 4 donne piuttosto belle. Dopo la giovane scese un uomo di mezza età, anche se la barba brizzolata e gli occhiali con la montatura in acciaio lo facevano apparire decisamente più anziano. Il suo naso irregolare, molto grosso, rubizzo, brillava come un pomodoro lustro sotto un'intensa luce bianca nel sole del deserto. Un sigaro tra i denti, ben vestito, sembrava un professore. Con gli occhi socchiusi si calcò in testa un cappellaccio giallo pallido che lo aiutava a proteggersi dalla luce, e con passo pesante superò la porta del terminal a fianco della donna, che sovrastava di una spanna abbondante. Ciò nonostante, tutti i presenti, donne comprese, non avevano occhi che per la ragazza. Non c'erano dubbi. Sotto un cappello a larga tesa e grandi occhiali da sole con le lenti fumé, assomigliava alla Garbo, la grande Garbo, la Greta Garbo da giovane. La ragazza di Smith li accolse salutandoli. L'omone le strinse la mano che comparve dal suo enorme palmo. Ma la sua stretta era precisa, gentile, ferma. Era il chirurgo. «Eccoci», disse. «Io sono il dottor Sarvis, questa è Bonnie». La sua voce usciva stranamente morbida, bassa, melanconica, da un organismo così grande o pesante. «Miss Abzug? Miss Abzug? La chiami Bonnie?» Sul fondo del furgone vennero sistemati sacchi a pelo e le sacche da viaggio si lasciarono rapidamente alle spalle Page, superando le 13 chiese di Jesus Row, i quartieri degradati dell'edilizia pubblica, le malconce case mobili degli operai edili e i disastrati bassifondi della Navajo Land, ai margini della città. Cavalli malati erravano lungo l'autostrada alla ricerca di qualcosa da mangiare. Giornali, Kleenex, lattine di birra, qualunque cosa più o meno degradabile. Il dottore parlava con l'autista di Seldon. Miss Abzug rimase in disparte e silenziosa per la maggior parte del tempo. «Che posto terrificante!» disse un tratto. «Ma chi ci vive qui?» «Gli indiani», rispose Doc. «Per loro è anche troppo». Giù, attraverso Dynamite Notch per Battle Springs e Marble Canyon e sotto le paranoiche merlature con i doccioni dell'era giurassica fino a Lee's Ferry, il puzzo di letame caldo e i salici verdi del fiume, il sole caldo ruggiva nel pieno azzurro, nel cielo azzurro del deserto, come il manto della Vergine. Esaltando, con la sua luce dirompente, l'aspra perfezione delle rupi, il fiume trionfante, i preparativi di un grande viaggio. Un secondo giro di presentazioni. Dottor Sarvis, Miss Abzug, Seldon Sin Smith. Piacere di conoscerla, signore. Anche lei, signora. Quello è George Aydak. Dietro il cespuglio. Lui sarà lo schiavo numero 2 del viaggio. Di qualcosa, George. Il barbone farfugliò qualcosa di incomprensibile dietro la barba, stritolò con la mano una lattina di birra vuota, lanciò il relitto verso un vicino bidone dell'immondizia, mancando però il bersaglio. Aydak adesso indossava dei pantaloni corti, stracciati, un cappello di cuoio. I suoi occhi erano arrossati, puzzava di sudore, sale, fango e birra vecchia. Il dottor Service, impettito e dignitoso con la barba curata, guardava Aydak con una certa diffidenza. Erano quelli come Aydak che rovinavano la reputazione delle barbe. Smith, osservandoli con il suo largo sorriso, sembrava soddisfatto del suo equipaggio e dei passeggeri, soprattutto di Miss Abzug, dalla quale faceva fatica a distogliere lo sguardo, ma a lei aveva qualcosa, e Smith sentì in basso, lì in basso, il prurito. È un'agitazione debole ma inconfondibile dei peli pubici che sono il sicuro preludio dell'amore. Venereo come un biglietto di San Valentino non avrebbe potuto avere altro significato. Nel frattempo, quello che rimaneva della lista passeggeri arrivò in macchina. Due segretari da San Diego, vecchie amiche di Smith, ripetenti, che avevano fatto quel giro sul fiume con lui già parecchie volte. Il gruppo era al completo. Dopo uno spuntino di cibo in scatola, formaggi, cracker, birra e bibite gassate, diedero inizio alla loro avventura. L'assistente ufficiale non si era ancora fatto vedere, così Aydak ottenne un lavoro. Imbronciato e silenzioso, avvolse la bollina in assetto nautico, spinse l'imbarcazione in acqua e saltò a bordo. La barca galleggia sulla corrente del fiume. Era costituita da 3 gommoni legati stretti uno di fianco all'altro, come un triplo rimorchio, un natante massiccio dall'aspetto improbabile, ma perfetto per rocce e rapide. I passeggeri sedevano al centro. Aydak e Smith, come vogatori, stavano in piedi o seduti sui lati. L'autista del furgone di Smith agitò il braccio in segno di saluto dalla riva con l'aria malinconica. Non l'avrebbero più vista per 14 giorni. I remi in legno cigolavano negli scalmi. Il vascello avanzava con la corrente che l'avrebbe trascinato ad una velocità di 7-8 km l'ora per gran parte del canyon, più veloce nelle rapide. Non come su una barca a remi, ma rivolti a prua come gondolieri a spingere sui remi, non a remare. Aydak e Smith si misuravano con il fiume luccicante, con il frastuono delle rapide dietro la prima curva. Smith si era ficcato un bastoncino di carne secca tra i denti. Illuminate da dietro dal sole pomeridiano, le onde brillavano come metallo martellato, come bronzo laminato, con le varie faccette che riflettevano con effetto specchio il luccichio del cielo. A est, luminosa e muta sopra le pareti rosse del canyon, la luna nuova stava appesa al firmamento rosso vino come una pallida risposta antifonale alla gloria del sole. La luna nuova nel pomeriggio, il sole fanatico di fronte, un uccello fischiettava tra i salici. «Giù per il fiume!» Haidak non sapeva niente delle discese sul fiume, e Smith lo sapeva che lui non sapeva. Non aveva molta importanza fin tanto che i passeggeri non lo avessero scoperto. Quello che interessava Smith era la schiena larga e possente di Haidak, le sue braccia da gorilla, le gambe corti e forti. Il ragazzo avrebbe imparato tutto quello che doveva imparare abbastanza in fretta. Si avvicinarono alle cataratte del Paria, sotto il promontorio dove vivevano i ranger del parco. I turisti li osservavano dal nuovo campeggio metallico sulla collina. Smith si drizzò in piedi per avere una visione migliore delle rocce e dell'acqua agitata immediatamente davanti all'imbarcazione. Niente di particolare, una piccola rapida, grado 1 sulla scala dell'esperto barcaiolo. Il fiume verde si arricciava intorno a qualche dente calcareo delle acque lisce che gorgogliavano producendo schiuma. Un rombo atono, quello che gli esperti di acustica chiamano rumore bianco, vibrava nell'aria. Some voodoo healing, baby. E questi erano ZZ Top con il brano Mai in Mississippi, dopo la prima lettura di Sabotatori di Edward Abbey. Ora si passa alla controinformazione, con una notizia apparsa sulla stampa del Mattino di Napoli. Non a caso, a proposito di cospirazioni. Ecco, il Mattino di Napoli oramai è strariconosciuto, almeno da noi che viviamo qua, ma il Mattino, vabbè, come tutta la stampa alla fine... fanno diciamo, il loro miserabile diciamo lavoro. Distingue particolarmente sì. Nell'ambito locale. Sì, vedremo perché. Allora, praticamente il 31 dicembre 2013 una lettera bomba arrivò alla prefettura di Napoli, indirizzata allo stesso prefetto Francesco Musolino, ed esplose tra le mani della sua segretaria. L'atto fu rivendicato con alcune righe in cui si parlava di disoccupazione e crisi. Ovviamente, lettera più bomba uguale anarchici. La prima pista seguita dall'inquisitore fu quella degli anarchici insurrezionalisti napoletani, ma pochi giorni dopo fu arrestato un uomo che tra l'altro ammise di essere stato lui ad inviare la lettera. Dopo tre mesi la procura di Napoli ha deciso di scarcerare l'uomo, e per questo si è felici, perché non crede più nelle sue ammissioni e ritorna alla carica contro gli anarchici insurrezionalisti napoletani. Siamo consci del fatto di essere il ferro del mestiere di magistrati in cerca di lavoro. Tali miserabili fanno le loro fortune per qualche anno mettendosi a busta paga dello Stato sulle nostre pelli. Ovviamente, meglio gli anarchici su cui costruire un'eventuale inchiesta, un processo lungo e che possa dare visibilità al miserabile di turno, che un individuo qualunque che si è rotto le palle dei problemi che lo attanagliano e passa all'azione. Non da meno lo sono i giornalisti. Giuseppe Grimaldi, giornalista del Mattino e miserabile quanto il magistrato, per ottenere la sua paghetta giornaliera scrive articoli per mestiere. Nell'articolo apparso sul giornale del 7 aprile scorso non si è limitato a riportare le veline di un magistrato arrapato di notorietà, ma in un altro più piccolo scrive i suoi pensierini da mancato e fallito inquisitore. E allora scrive di rapporti degli anarchici insurrezionalisti napoletani con quelli del Veneto, Toscana, Piemonte. Parla di storici personaggi anarchici, aggiungendo che la lettera bomba sarebbe stata costruita da mani esperte. Ovviamente non sono stupito di niente, miserabili giornalista e magistrato, per un tozzo di pane e un pizzico di notorietà, scriverebbero contro e arresterebbero anche i loro figli, le loro mogli e le loro madri. Figuriamoci cosa non farebbero agli anarchici, dato che siamo sempre stati fonte di guadagno facile. Speriamo che stavolta meno i soldi guadagnati vengano spesi in farmaci. Tutto normale, tutto rientra nel gioco dei ruoli di un esistente da distruggere e incenerire. E non mi meraviglio, non si meravigliano magistrati e governanti e giornalisti se un individuo qualunque un mattino si sveglia e si cala nei panni del leone e non della gazzella, perché fino a quando vi è miseria vi sarà ribellione. Ora leggiamo l'articolo che ha scritto tale giornalista Giuseppe Grimaldi, in cui dice: la lettera bomba destinata ad esplodere tra le mani del prefetto Francesco Musolino, dopo tre mesi di indagini che miravano al gesto isolato di un bombarolo, si cambia direzione e si torna a cercare nell'ambiente anarchico insurrezionalista, in grado, si ipotizza, di disporre della tecnologia e delle conoscenze necessarie e mettere insieme un ordigno del genere, una lettera esplosiva preparata con mano sufficientemente esperta. E poi abbiamo il link per chi vuole andarselo a leggere da questo giornale. C'è scritto link della diarrea, la diarrea del giornalista, per chi vuole andare sulla pagina del Mattino e leggersi questa bella notizia di merda. Allora, ora passiamo al prossimo brano. Loro sono The Chameleons con il brano Paper Tigers, e poi dopo si ritorna qui con la lettura di I Sabotatori di Edward Abbey. We'll be right back. Come prestabilito, Haidak e Smith fecero ruotare l'imbarcazione di 90 gradi e si portarono di sghembo, quell'assurda imbarcazione era più larga che lunga, sulla faccia vitrea della piccola rapida. La attraversarono scivolando senza quasi sollevare spruzzi. Restando ai bordi della furia delle acque, si infilarono nella confluenza dove il paria, in piena, mescolava le sue acque grigie e ricche di betonite con il verde chiaro del fiume Colorado chiuso dalla diga. Da una velocità di 20 km all'ora rallentarono fino a 9 o 10. Haidak si rilassò ora, aprendosi in un largo sorriso. Si asciugò l'acqua dalla barba e dalle sopracciglia. Beh, cazzo, pensò, questo è nulla. Perché merda, il fiume sembra proprio il mio elemento. Passarono sotto il Marble Canyon. E se da sotto si guardava, da sopra si guardava in giù, l'altezza non sembrava granché, non c'erano punti di riferimento, ma sollevando lo sguardo dal fiume si resero conto di avere di fronte un bel salto di oltre 100 metri. Da qui e là saranno stati circa 35 piani di grattacielo. Le auto che scorrevano lente sul ponte sembravano dei giocattolini, i turisti che se ne stavano in alto a osservare la scena apparivano grandi come insetti. Il ponte si perdette alle loro spalle per svanire oltre la curva delle pareti del canyon. Adesso si trovavano nella Marble Gorge, conosciuta anche come Marble Canyon, 100 km di fiume 90 metri sotto il livello del terreno che portavano dentro al Grand Canyon alla foce del Little Colorado. Seldom Seen Smith, come al solito, era affezionato ai ricordi. Ripensò al vero Colorado, prima della dannazione, quando il fiume scorreva libero da vincoli e catene nelle gioiose piene di maggio e giugno, gonfio delle nevi disciolte. I ciottoli scricchiolavano, schioccavano e rimbombavano lungo il letto roccioso del fiume come molari che macinano su una mascella gigantesca. Quello era un fiume. Eppure, anche così come era ora, non tutto era perduto. La luce imperlata del pomeriggio scendeva obliqua oltre le pareti del canyon, tingendo di whisky le rocce e gli alberi. Una benedizione silente dal cielo impeccabile, un regalo dal vostro amichevole sistema solare. Scomparsa e poi riapparsa la pallida ostia Elisa della nuova luna li seguiva, uno spirito benigno, una fata regina che vegliava su di loro. Ancora il bianco ruggito, un'altra rapida in avvicinamento. Smith diede l'ordine di allacciarsi i giubbotti del salvagente. Passarono un'altra curva, il rumore si impennò in maniera inquietante e giù per il canyon, dove adesso si vedevano solo rocce che spuntavano come denti da un cerchio di schiuma bianca. In quel punto il fiume sembrava sprofondare sottoterra. Stando sull'imbarcazione, oltre le rapide non si riusciva a vedere più niente. Badger Creek Rapids, annunciò Smith. Si alzò in piedi ancora una volta. Terzo grado, niente di serio, ma comunque voleva sempre dare una buona controllata prima di tuffarcisi. Stava in piedi e leggeva il fiume come altri avrebbero potuto leggere i simboli su un tabellone segnapunti, i segnali di ritorno su uno schermo radar o gli indizi del tempo nelle formazioni nuvolose in lontananza. Cercò il grasso rigonfiamento che significava zanne di pietra nascoste, la distesa interrotta di ondine che indicava rocce e acqua bassa, l'ombra del fiume che raccontava di una bara di pietrisco 10 cm sotto la superficie, i rami piccoli e grandi dei tronchi sommersi che potevano tagliare il fondo dei suoi gommoni. Seguì con lo sguardo i fiocchi di schiuma luccicanti, trascinati dalla corrente, le increspature quasi invisibili e i mulinelli sui fianchi del fiume. Smith leggeva il fiume, le signore leggevano lui. Non era consapevole di come apparisse comico ed eroico l'uomo del Colorado, allampanato e scuro, come il fiume, piegato sul remo, gli occhi socchiusi nel sole, la dentatura forte e immacolata che illuminava il suo abituale sorriso, la maschia protuberanza all'altezza della lampo dei suoi vecchi Levis, le grandi orecchie a sventola allerta, le rapide si avvicinavano. «Tutti giù!» ordina Smith. «Attaccatevi alla corda!» Con un frastuono infernale di acqua scrosciante, la massa del fiume si schianta sui detriti rocciosi provenienti dalla bocca di un canyon laterale. La vibrazione atona e profonda tutto intorno, una nebbia di pulviscolo d'acqua in sospensione, minuscoli arcobaleni a mezz'aria nella luce del sole. Fecero ruotare ancora l'imbarcazione. Smith esercitò una leggera pressione sul remo prendendo la prua e condusse l'imbarcazione dritto sulla faccia delle rapide, dove l'onda piatta come l'olio della corrente principale si rovesciava come un torrente nel cuore del frastuono. Nessun bisogno di imbrogli su questa, che era una rapida minore. Avrebbe regalato ai suoi clienti un brivido degno dei soldi che avevano speso. Era per quello che avevano pagato. Un'onda alta 2,5 metri si profila sopra Smith, accucciato a prua. L'onda rimane lì, in attesa, non si muove. Sul fiume, diversamente dal mare, è l'acqua che si muove e le onde rimangono al loro posto. La punta dell'imbarcazione scala l'onda, sospinta dall'inerzia e dal peso posteriore. Smith si aggrappa alle corde. L'imbarcazione tripartita rischia quasi di richiudersi su se stessa, poi si piega sull'onda e scivola nella depressione più oltre. La seconda e la terza parte seguono pedissequamente. Un masso umido e lucido si para davanti, esattamente sulla loro rotta. L'imbarcazione si blocca lì di fronte. Una tonnellata d'acqua viene respinta dalla roccia e investe la barca. Rimangono tutti inzuppati all'istante. Le donne strillano deliziate, persino Doc Service ride. Smith tira il suo remo, il natante rotola sul masso e si piega e sbanda come un toboga sulle onde nella coda delle rapide, poi rallenta nelle acque più calme sotto. Smith guarda indietro. Ha perso un vocatore. Dove avrebbe dovuto esserci George Ida, che il remo oscilla senza governo nel suo scalmo? Eccolo che arriva. Haydack, con il suo giubbotto salvagente arancione, si muove a scatti tra i flutti, ghignando con feroce determinazione, le ginocchia sotto il mento, la posizione fetale, utilizzando piedi e gambe come ammortizzatori, rotolando sulle rocce. Risposta istintiva e corretta. Ha perso il suo berretto, però, e non emette un suono. Nell'acqua più calma sotto la rapida lo issarono a bordo. «Ma dove sei stato?» chiese Smith. Ridendo e sputacchiando, Haydack scosse la testa, fece uscire l'acqua dalle orecchie e cercò di assumere un'aria fiera e al tempo stesso remissiva. «In quel cazzo di fiume!» mormorò. «Ma dovevi tenerti attaccato ad una corda!» disse Smith. «Mi stavo tenendo a quel cazzo di remo, sbattuto contro un masso e mi si è infilato nello stomaco!» E si tastò nervosamente la massa ingarbugliata di capelli fradici. Il suo cappello, un vecchio sombrero di cuoio di Sonora, stava galleggiando sulle onde in procinto di affondare per la terza volta. Lo recuperarono con un remo. Il fiume li trasportò tranquillamente verso il plateau, nel mantello precambriano della terra, verso le terre basse, il delta e il mare di Cortez, lontano 1000 chilometri. «Le prossime sono le Soap Creek Rapids», disse Smith, e non appena lo disse sentirono di nuovo il frastuono dello scontro tra l'acqua e le pietre da dietro la curva del fiume. «È ridicolo», disse Apsug sottovoce a Doc. Se ne stavano seduti ingobbiti insieme con un poncio fradicio a coprire pancia e gambe. Lei era raggiante di piacere. L'acqua gocciolava dalla tesa del suo cappello esagerato. Il sigaro del dottore bruciava, coraggioso, nell'umidità. «Assolutamente ridicolo», confermò. «Che te ne pare dei nostri barcaioli?» «Oh, strani. Quello alto sembra Isabeau Ignaz. Quello basso sembra un bandito uscito da un vecchio film di Mark Sennett». «O Caronte Cerbero», disse Doc. «Ma cerca di non ridere, la nostra vita è affidata alle loro mani incerte», e risero nuovamente. Tutti insieme adesso affondarono in un altro maelstrom, quarto grado, sulla carta fluviale. Il fiume più rabbioso, le onde pesanti, l'impeto degli elementi, la furia pura e insensata di tonnellate di acqua irrefrenabile che si schiantavano su tonnellate di arenaria inamovibile. Loro sentirono l'impatto, udirono il rombo, videro la schiuma e gli spruzzi e gli arcobaleni sospesi nella nebbiolina mentre cavalcavano attraverso il caos verso la luce. L'adrenalina dell'avventura, senza il tempo per la paura, li teneva a galla in alto sopra le onde. Per Smith quella era la 45esima discesa per il Gran, e per quanto riusciva a misurare finora la reiterazione non aveva intaccato il piacere. Ma a dire il vero non riusciva nemmeno a ricordare due discese che si potessero in qualche modo paragonare. Il fiume, il canyon, il deserto erano mondi che cambiavano di continuo da un momento all'altro, di miracolo in miracolo, all'interno della solida realtà di madre terra. Il fiume, il sole, la roccia, la fame, il sangue, le ali, la gioia, questa è la realtà, avrebbe detto Smith se avesse voluto, se se la fosse sentita. Tutto il resto è teosofia androgina. Tutto il resto è scientologia trascendentale, transazionale, travestita da un'altra moda del giorno o una mania della settimana, come avrebbe detto Doc se Smith glielo avesse chiesto. Chiedete al falco, chiedete al leone affamato che sta balzando sulla femmina di Dino stremata di fame, loro lo sanno. Questo era il pensiero di Smith, soltanto un piccolo uomo d'affari, per dirla tutta, al college non ci aveva mai nemmeno messo piede. Nella grande quiete, tra le rapide, che era la metà del fiume e la maggior parte del tempo, Smith e Aidak si appoggiavano ai loro remi e lasciavano che la canzone di uno scricciolo, un nitido glissando di semicrome, si mischiasse allo sgocciolio dell'acqua, al gorgoglio dei mulinelli, al grido degli aironi, al fruscio delle lucertole nella terra sulla riva. Tra le rapide non c'era silenzio, ma musica e immobilità, mentre le pareti del canyon diventavano gradualmente più alte. 300, 500, 600 metri, il fiume scendeva, le ombre si allungavano e il sole si affievoliva. Cominciarono a percepire il gelo che giungeva dalle profondità. Hopper

i regimi speciali e punitivi, i reati ostativi, il sovraffollamento. Lottare contro il carcere non è facile, siamo a sostegno di chi intraprende questa via, libero dal gioco politico e dall'alveo istituzionale. Non abbiamo proposte relative a riforme carcerarie utili o possibili perché pensiamo che l'abbattimento dell'istituzione carceraria sia l'unica possibilità per la creazione della società libera nel quale aspiriamo. Crediamo nella necessità di un mondo senza galere e confine. La nostra presenza sotto il carcere di Marassi sarà a sostegno della forza e della scelta dei detenuti partecipanti di oltrepassare l'isolamento al quale questa società prigione cerca di relegare nel tentativo di creare un momento di rottura. Qualunque aspetto della realtà penitenziaria è inaccettabile, dall'isolamento alla tortura, alla morte alla quale conduce come lucro sulla vita dei detenuti. Spezzare l'isolamento al quale il totalitarismo democratico capitalista cerca di costringerci in ogni luogo delle nostre vite è necessario. Siamo per un mondo libero dallo sfruttamento e dalla sopraffazione dell'uomo sull'uomo. L'ordinamento dello Stato non ci rappresenta. Nella tensione al suo sovvertimento manifestiamo la nostra critica a questo sistema imposto dall'alto con la brutalità e il ricatto. Rilanciamo la lotta anti-autoritaria con questo presente di controllo, sbarre e chiavistelli. Scegliamo di esserci in queste giornate non perché riteniamo efficace scandire limiti di tempo alla lotta, piuttosto per contribuire alla realizzazione di un momento conflittuale condiviso, nutrito dalla passione per la libertà, dentro come fuori da quelle infami mura. Vogliamo vedere smantellato il carcere come il diritto che lo sorregge e soprattutto la società che, non potendone farne a meno, la riproduce a sua immagine, rivolta permanente per la libertà. E questo era il testo del manifesto dei compagni genovesi, manifesto che potete anche scaricare, in fondo all'articolo c'è il link del manifestino in PDF, quindi ci cliccate sopra e ve lo salvate e lo diffondete se lo volete diffondere, altrimenti ve lo leggete e basta. Radioazione vuole affermare che qualunque aspetto della detenzione è inaccettabile, sì, è non riformabile. Infatti, cioè, come anarchici siamo contro il carcere in tutto e per tutto e non vogliamo riformarlo in alcuna cosa. L'unico carcere che ci interessa è quello distrutto, come si è sempre detto. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Nitzereb con il brano Murderous e poi dopo si ritorna qui con la lettura dei Sabotatori di Edward Hervey. It's time to know. È tempo di preparare il campo, gente! Annunciò Smith remando verso riva. Haydak fece la sua parte senza risparmiarsi. A poca distanza, sulla sponda destra, c'era un pendio di sabbia bordato da alcuni gruppi di salici color rame e macchie di tamarindi con piume di lavanda che si agitavano nella brezza. Di nuovo sentirono il richiamo di uno scricciolo, un piccolo uccello con un grande becco, ma musicale, molto, molto musicale. E il rombo lontano di un'altra rapida che sembrava l'applauso ininterrotto di una folla immensa e instancabile. I grugniti e i respiri di due uomini impegnati a lavorare remi che raschiano, il dialogo tranquillo dei passeggeri di prima classe. «È una figata, Doc!» «Per favore, rispettiamo la sacralità del luogo, non usiamo un linguaggio tecnico.» «Sì, ma dov'è la macchinetta della coca?» «Per favore, sto meditando.» La prua grattò sulla ghiaia. Haydak, il tuttofare, arrotolò la corda su una mano, camminò nell'acqua che gli arrivava alle caviglie e legò l'imbarcazione a un fitto boschetto di salici. Portarono tutto a riva. Haydak e Seldom passarono a ciascun passeggero l'equipaggiamento da fiume, bagaglio impermeabilizzato, piccole scatole di munizioni riempite di effetti personali, e i passeggeri si allontanarono. Doc e Bonnie in una direzione, le due donne di San Diego nell'altra. Smith si fermò un istante a osservare la figura che si rimpiccioliva di Miss Habzug. «Non è uno schianto», commentò. «Non è davvero uno schianto». E chiuse un occhio come se stesse guardando lungo la canna di un fucile. «Quella ragazza è miele puro, roba da leccarsi le labbra». «La figa è figa», disse George Haydak, il filosofo, senza nemmeno disturbarsi a guardare. «Adesso scarichiamo tutto?» «Quasi tutto, lascia che ti faccia vedere.» Lottarono con il bagaglio pesante, le grandi scatole di munizioni riempite di cibo, la borsa termica, la cassa di legno contenente le pentole e le padelle di Seldom, pentole a pressione, grigie, e altri utensili da cucina, e depositarono tutto sulla spiaggia. Smith delimitò l'area della sua cucina dove piazzò i fornelli, il tavolino pieghevole, la dispensa, il bancone, le olive nere e i piccoli molluschi fritti. Spaccò pezzetti di ghiaccio per le tazze di questuanti che sarebbero presto apparse e versò un goccio di rum per Haydak e per sé. Gli altri erano ancora dietro i cespugli a infilarsi dei vestiti asciutti e a prepararsi per i rigori della sera. «Questo è per te, barcaiolo», disse Smith. «Oh, Abin!» rispose Haydak. Smith preparò la brace e scartò il pacchetto della macelleria con il piatto tradizionale della prima sera, gigantesche bistecche mollicce, e lo piazzò vicino alla griglia. Haydak pulì l'insalata e nel frattempo innaffiò il rum con la decima lattina di birra dalla mattina. «Quella roba ti farà venire i calcoli intestinali», disse Smith. «Stronzate! Calcoli! Sono un esperto! È da una vita che bevo la birra, ma quanti anni hai?» «25. Calcoli», disse Smith. «Ti do altri 10 anni. Stronzate. I passeggeri asciutti rimessi a nuovo arrivarono in ordine sparso tutti insieme. Il dottore per primo appoggiò la sua tazza di latta sul bancone e ci infilò un minuscolo iceberg e si versò un doppio cicchetto della sua bottiglia di Wild Turkey. «È una bella serata, calma e serena», annunciò. «È vero», disse Smith. «Il tempo sacro è tranquillo come una monaca». «Ha detto bene, dottore. Chiamami Doc. Ok, Doc. Piacere. Piacere mio, Doc.» Ci fu qualche altra battuta sull'ambiente, poi si passò ad altri argomenti. Habzug, la ragazza, arrivò indossando lunghi pantaloni e una vecchia felpa. Si era tolta il grande cappello, ma nonostante il tramonto aveva tenuto gli occhiali da sole. Conferiva un tocco di classe alla Marble Gorge. Intanto il dottore stava dicendo: «La ragione per cui di questi tempi si trova così tanta gente sul fiume è perché ormai ce n'è troppa dappertutto.» Bonnie ebbe un brivido, scivolando nell'incavo del suo braccio sinistro. «Perché non accendiamo un fuoco?» chiese. «Il deserto un tempo offriva agli uomini un modo di vivere sostenibile», disse il dottore. «Adesso funziona come rifugio psichiatrico. Presto il deserto sarà scomparso», e sorseggiò il suo barbon con ghiaccio. «Presto non ci saranno più posti dove andare e allora la follia diventerà universale.» «Un'altra riflessione.» «E l'universo diventerà la follia. Lo faremo, disse Smith a Miss Abzug. Ma dopo cena accenderemo il fuoco. Mi chiamo Bonnie, Miss Bonnie. Miss Bonnie, lo corresse lei. Gesù, non ci posso credere, borbottò Hajduk lì vicino, che ne aveva sentito, e strappò la linguetta di un'altra lattina di Coors. Abzug scagliò una gelida occhiata sulla faccia di Hajduk o su ciò che riusciva a vedere dietro il ciuffo nero e la barba cespugliosa. Un imbecille, pensò. La villosità è bestiale, pensava Arthur Schopenhauer. Hajduk colse il suo sguardo e aggrattò le sopracciglia. Lei si voltò subito verso gli altri. Siamo intrappolati, proseguì il buon dottore, nei cingoli d'acciaio di un Moloch tecnologico, una macchina senza cervello, come un reattore autofertilizzante al posto del cuore. Hai detto bene, Doc, commenta Seldon St. Smith e cominciò a occuparsi delle bistecche, disponendole delicatamente sulla griglia sopra tizzoni incandescenti. Un industrialismo planetario, il dottore continuò la conferenza, che cresce come un cancro. La crescita per la crescita, il potere per il potere. Credo che ci metterò sopra ancora un po' di ghiaccio. Fattene un goccio anche tu, capitano Smith. Rallegrerà il tuo cuore, dorerà il tuo fegato e fiorirà come una rosa nel concime nelle tue interiora. Non ti preoccupare per me, Doc. Ma Smith voleva sapere come poteva crescere una macchina e Doc lo spiegò. Non fu facile. Le due ripetenti di San Diego emersero dai cespugli sorridendo. Avevano srotolato il sacco a pelo di Smith sistemandolo in mezzo ai loro. Una giovane portava una bottiglia. C'era qualcosa nei viaggi sul fiume che sembra sempre promuovere il consumo di droghe potabili, tranne per Abzug, che di tanto in tanto tirava da una zigzag rollata a mano tenuta tra le dita delicatissime. Nell'aria intorno alla sua testa c'era odore di qualche erba che bruciava. L'odore ricordò ad Aida che i giorni buie e le notti più buie. Attraversò la tavola borbottando in stile buffet con l'insalata, il pane di lievito naturale, le pannocchie, una pila di piatti di plastica. Smith girò le bistecche, Doc stava spiegando il mondo. Pipistrelli dal naso porcino guizzavano attraverso la sera emettendo ronzii da radar, ingoiando insetti. Più giù, lungo il corso del fiume, le rapide attendevano digrignando i denti nel cupo irregolare boato. In alto, sul bordo del canyon, una roccia scivolò o venne smossa da qualcosa. Perse in ogni caso il suo appiglio e rotolò di parapetto in parapetto, smarrita nell'abbraccio della gravità, nell'alchimia del cambiamento, un frammento del flusso universale, e atterrò come una bomba nel fiume. Doc si interruppe a metà monologo. Tutti ascoltarono per un momento l'eco che si spegneva. Prendetevi un piatto, va, disse Smith ai suoi clienti, e riempitelo. Non ci fu alcuna esitazione. Lui servì le bistecche, l'ultimo nella fila, e sdegnando il piatto, Hajduk porse la sua tazza del Sierra Club. Smith fece oscillare una bistecca gigante sopra la tazza, coprendo, oltre a quella, la mano, il polso e l'avambraccio di Hajduk. Mangia, disse Smith. Benedetto succhiacazzi, disse il suo assistente con deferenza. Ora che i suoi passeggeri e il suo aiutante stavano mangiando, Smith accese un falò con rami presi dalla spiaggia, poi si servì un piatto abbondante. Tutti gli sguardi furono attratti dal fuoco, mentre l'oscurità del canyon si stringeva intorno a loro. Fiammelle rosse e blu leccavano e lambivano la legna del fiume. Ceppi scolpiti di pino giallo dell'altopiano distante un centinaio di chilometri, ginepri, pini, pioppi, rametti perfettamente sfrondati di cerciti, bagolari e frassini. Seguendo le scintille verso l'alto vedevano le stelle accendersi in sequenza incerta: smeraldi, zaffiri, rubini, diamanti e opali sparsi per il cielo in una distribuzione sorprendente e casuale. Ben al di là di queste galassie galoppanti, o forse davvero troppo presente per essere visto, era appostato Dio, il vertebrato gassoso. Finita la cena, Smith tirò fuori i suoi strumenti musicali e suonò per la compagnia riunita. Suonava la sua armonica, volgarmente definita organo a bocca. L'arpa ebreo è quello che il B'nai B'rit chiama un'arpa a bocca, è il suo kazoo, che tuttavia aggiunse poco all'arricchimento musicale degli astanti. Smith e il dottore facevano girare l'acquavite. Apezug, che di regola non beveva, aprì la sua borsa dei medicinali, tirò fuori un tubetto Tampax, prese un po' di marijuana e rollò la seconda sigaretta marrone stretta a un'estremità. La accese e la fece girare, ma nessuno si prese la briga di accettarla, eccetto un riluttante Haidak e le sue memorie. «La rivoluzione dell'erba è finita?» chiese lei. «Tutto è finito», disse Doc. «E in ogni caso la marijuana non è mai stata più che un placebo attivo». «Ma che sciocchezza! Un pacificatore orale per adolescenti colitici, ma figuriamoci!» La conversazione perse interesse. Le due giovani di San Diego, un suburbio di Tijuana, cantarono una canzone intitolata «Dead Skunk in the Middle of the Road». Barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barbarians, barb conquer your country. And make you all slaves. They'll burn down your houses. And rave at your graves. You'd better get ready. You'd better beware. Banging at your windows. Barbarians are here. Barbarians are coming. Barbarians are coming. Barbarians are coming. Barbarians are coming. Barbarians, barbarians. Heading your way. Barbarians, barbarians. We'll tear you down from the Northern Bay. E questi erano Laibach con il brano Know You Will Pay. Ora si ripassa alla controformazione. Si va in Cile per due brevi notizie che riguardano bene o male la stessa cosa. Riguardano la rapina al Banco Estado in cui morì il compagno Sebastian. Il primo è la traduzione, il secondo sono degli aggiornamenti. Allora, la traduzione di un manifesto che ho fatto io, quindi la leggiamo. Sul sito si può scaricare anche il manifesto, un manifesto che ha per titolo La nostra memoria è nera, il nostro cuore anche. Abbiamo le idee in materiale, dobbiamo imparare a mescolarli per creare la rivolta quotidianamente. Dobbiamo creare oggi quello che vorremmo vivere, iniziamo a vivere quello che desideriamo. Pelao Angry. Sebastian Ovesluy Pelao Angry, che era il soprannome di Sebastian, compagno anarchico nichilista, partecipò all'assalto in una banca a Pudahuel l'11 dicembre 2013. Mentre cercava di espropriare l'accumulo di ricchezza del capitale, fu abbattuto da William Vera, guardia miserabile che decise di difendere innanzitutto i privilegi del padrone. Avanzando con le nostre negazioni e decisioni di lotta, espropriamo le nostre vite ai nemici della libertà. Sebastian Ovesluy, presente. E questo era il manifesto tradotto. Invece gli aggiornamenti sono per gli altri due compagni che insieme a Sebastian cercarono di espropriare il Banco Estado. Allora, il venerdì 28 marzo si è tenuta l'udienza sul caso dei fratelli combattenti Alvia Alfonso e Hermes Gonzalez nel primo tribunale di garanzia del Centro di Giustizia di Santiago in Cile. Il risultato di questa udienza è che il periodo di indagine viene prorogato per altri due mesi per i compagni detenuti. La nostra solidarietà è irriducibile con i compagni Hermes e Alfonso e nella nostra memoria nera Sebastian Ovesluy sarà presente in ogni azione. E questi erano gli aggiornamenti per quanto riguarda sia i due compagni detenuti e il manifesto per il ricordo di Sebastian. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Dinne Todd, il brano non vi dico come si intitola perché è in francese, quindi lo storpierei brutalmente, e poi dopo si ritorna qui con il racconto di Edward Ebbey, I Sabotatori. Forgive me, tell me what you think. caging us in. I can't move. On my own, I can't fear myself. My body moves, my blood runs like iron. Fatica tirava gli arti inferiori e le palpebre come una forza gravitazionale. Così come erano venuti se ne andarono, prima Abzug, poi le due donne di San Diego, prima le signore. Non perché fosse il sesso debole, non lo erano, ma semplicemente perché avevano più materia grigia. Gli uomini si sentivano come obbligati a stare alzati a bere, sino alla conclusione sconcia e biliosa, farfugliando, borbottando e farneticando attraverso l'appannamento, per ritrovarsi finalmente carpone a vomitare sulla sabbia innocente, ibrattando la dolce terra di Dio. Questa era la tradizione virile. I tre uomini si ingobbirono più vicini al fuoco che rimpiccioliva. La notte fredda arrancava sulle loro schiene. Si passarono la bottiglia di Smith fino all'ultimo guccio, poi toccò a quella di Doc. Smith, Hyduck, Service, il capitano, il vagabondo e il cavasangue. Tre stregoni sul ramo secco, un'intimità complice si insinuava tra di loro. «Lo sapete, stimatissimi colleghi», disse il dottore, «lo sapete, secondo me, cosa dovremmo fare?» Hyduck si stava lamentando delle nuove linee dell'alta tensione che aveva visto il giorno prima nel deserto. Smith recriminava ancora contro la diga, quella diga che aveva tappato il Glen Canyon, il cuore del suo fiume, il fiume del suo cuore. «Lo sapete allora che cosa dovremmo fare?» disse il dottore. «Dovremmo far saltare quella diga e mandarla a puttane!» La lingua sboccata di Hyduck aveva finito per sciogliere anche la sua. «Cosa?» fece Hyduck. «Ma non è legale!» disse Smith. «Avevi detto di aver pregato per un terremoto, certo, ma non c'è una legge che lo possa impedire. Stavi pregando con intenzioni malvagie, questo è vero, prego sempre in quel modo. È una chiara inclinazione al male e alla distruzione della proprietà governativa. È vero, Doc, questo è vero, ma questo è un reato grave. Non è una semplice infrazione, no, è un reato grave. Come?» lo interruppe Hyduck. «Che cosa? Come cosa? Come facciamo a far saltare la diga?» «Quale diga?» «Qualunque diga.» «Adesso sì che ci capiamo», fece Smith. «Ma la prima diga è quella del Glen Canyon Dam. Quella per me deve essere la prima.» «Non lo so», disse il dottore. «Sei tu l'esperto di demolizioni.» «Posso farti saltare un ponte», disse Hyduck, «se mi dai abbastanza dinamite, ma con la Glen Canyon Dam non saprei. Per quella avremo bisogno di una bomba atomica.» «È da un sacco di tempo che penso a quella diga», disse Smith. «È un piano. Prendiamo tre houseboat, grandi come aeroplani e qualche delfino.» «Zitto!» intimò Doc alzando la sua mano enorme. Un momento di silenzio. Si guardò intorno nell'oscurità, oltre la luce dei falò. Chi può sapere che orecchie stanno in queste ombre? Si guardarono intorno. Le fiamme del loro piccolo bivacco proiettavano una luce esitante sui cespugli. L'imbarcazione, mezza affondata nella spiaggia sabbiosa, le rocce, i ciottoli, il battito del fiume, le donne, tutte addormentate, non si riusciva a vederle. «Qui non c'è nessun altro tranne noi bombaroli», disse Smith. «E come fai ad esserne sicuro? Lo Stato può aver piazzato i suoi sensori ovunque.» «No», intervenne Hyduck. «Non hanno piazzato cimici nei canyon, non ancora in ogni caso. Ma chi l'ha detto che dobbiamo cominciare con le dighe? Ci sono un sacco di altri lavori da fare.» «Buoni lavori», annuì il dottore, «lavori buoni, salutari, costruttivi.» «Io odio quella diga», disse Smith. «Quella diga ha inondato il canyon più bello del mondo, lo sappiamo», disse Hyduck. «E la pensiamo proprio come te. Ma cerchiamo di cominciare con qualcosa di più semplice. Per esempio, mi piacerebbe far saltare un po' di quelle linee elettriche che hanno tirato nel deserto. E quei nuovi ponti di latta su, vicino ad Ait. E tutte quelle maledette strade che stanno costruendo nella terra dei canyon, solo per mettere fuori uso tutti quei bulldozer del cazzo. Ci vorrà almeno un anno.» «È bravo, caro collega», disse il dottore. «E non dimentichiamo i tabelloni pubblicitari, le miniere a cielo aperto, le tubazioni, la nuova ferrovia da Black Mesa fino a Page, le centrali a carbone, le fonderie di rame, le miniere di uranio, le centrali nucleari, i centri di elaborazione dati, le società che sfruttano le terre, il bestiame, gli avvelenatori della natura e la gente che getta lattine di birra in autostrada.» «Io getto le lattine in quelle autostrade del cazzo», disse Hyduck, «perché cazzo non dovrei buttare delle lattine del cazzo su quelle autostrade del cazzo?» «Calma, calma, non essere così suscettibile.» «Cazzo, diavolo», disse Smith, «anch'io lo faccio. Insozzo tutte le strade che non mi piacciono, per cui non sono stato consultato. È la mia religione.» «Giusto», disse Hyduck, «copriamolo di merda.» «Beh, adesso», disse il dottore, A questo non avevo pensato, riempire le autostrade di immondizie e gettare dal finestrino. Beh, perché no? Doc, disse Aidak, è un movimento di liberazione. La notte, le stelle, il fiume, il dottor Sarvis parlò ai suoi compagni di un grande inglese che si chiamava Ned Ludd. Dicevano che era un pazzo, ma lui aveva capito chi era il nemico, capiva che cosa sarebbe successo ed era passato all'azione. Poi parlò degli zoccoli di legni, le sabù, mettere i bastoni tra le ruote, il sabotaggio, la ribellione degli umidi, le vecchiette con i grandi zoccoli di quercia. Sappiamo quello che vogliamo fare e perché. No, non lo sappiamo. E non ci interessa capirlo. Lo capiremo strada facendo e lasciamo che sia la pratica a formare la nostra dottrina ed assicurarci una precisa coerenza teorica. Il fiume scorreva morbido, lì accanto, infinitamente sublime, sussurrando del tempo. Che cura, dicono. Cura tutto. Ma è vero. Le stelle guardavano bonariamente giù una bugia. Il vento tra i salici invogliava al sonno e agli incubi. Smith caricò altre legne di pino sul fuoco e uno scorpione, che se la dormiva in una fessura profonda di un ciocco, venne svegliato in modo orrendo. Troppo tardi, nessuno si accorse della sua agonia muta. In fondo al canyon solenne, sotto le stelle fatate, la pace regnava sovrana. «Abbiamo bisogno di una guida», disse il dottore. «Io conosco la regione», disse Smith. «Abbiamo bisogno di un killer professionista». «Eccomi», disse Aidak. «L'omicidio è la mia specialità». «Ogni uomo ha le sue debolezze». «La mia», aggiunse Doc, «è la bestialità e le figliolette di Baskin Robbins». «Fermiamoci qui», disse Smith. «Non sono discorsi che mi appassionano». «Non le persone, capitano», disse il dottore. «Stiamo parlando dei bulldozer, delle scavatrici, delle pale meccaniche, delle macchine per movimento terra». «Macchine», disse Aidak. «Ancora un'interruzione nei progetti. Sei sicuro che non abbiano piazzato microspie in questo canyon?» chiese il dottore. «Ho come la sensazione che ci sia qualcuno che sta ascoltando tutto quello che diciamo». «È una sensazione che conosco», disse Aidak. «Ma non è quello a cui sto pensando adesso. Sto pensando...» «A che cosa stai pensando?» «Stavo pensando... perché cazzo dovremmo fidarci gli uni degli altri? Voi due è la prima volta che vi vedo in vita mia». Silenzio. I tre uomini fissarono il fuoco, il chirurgo mastodontico, il barcaiolo allampanato, il bruto dei berretti verdi. Un sospiro. Si guardano tra di loro e uno pensa: che casino. E uno pensa: però hanno l'aria onesta. E uno pensa: non sono gli uomini il nemico, nemmeno le donne, nemmeno i bambini. Non in sequenza, ma all'unisono, come una cosa sola, sorridono tra di loro. La bottiglia fa il penultimo giro. «E che diavolo!» dice Smith. «Stiamo solo parlando». Johnny was me into the mind of a maniac, doomed to be a killer since I came out to get sick. In a murderous mind state with a heart full of terror. See the devil in the mirror, but book, lights out. Cause when I grab my sword off, and beat hard off. One, touch your motherfucking flesh. Two, touch your fucking heart. I just yes, you see it. Let the hammer go quick. I'm gonna take a nine so I can try to wreck mine for your bedtime. Feel the blast from the chopper's bomber. If you're red, I got your head like your name was Sarah Connor. Decapitation, I ain't hesitating to put you in a funeral home with a bullet in your dome. Hot like lava. You got a problem, solver, and its name is Revolver. Senegal. Got his ass with the 20 lashes like they do in the Singapore. So I'm a poor fucking Jeffrey Dahmer. Now he's suicidal, just like Nirvana. Questi erano Crest Analog con il brano Natural Born Killers. Ora si ripassa alla controinformazione con altre due brevi notizie. Una per quanto riguarda l'operazione Ardire, in cui sono state revocate per alcuni compagni le misure cautelari. Leggiamo il testo mandato in rete dalla Cassa di Solidarietà Aracnide. Apprendiamo che oggi 8 aprile sono state revocate tutte le misure cautelari ancora in piedi per gli indagati dell'operazione Ardire. Obbligo di dimora e firme giornaliere gravavano ancora su Alessandro, Elisa, Stefano, Peppe e Sergio. La revoca è confermata per i primi tre, per Sergio non è ancora arrivato, ma non ci sarebbero motivi per una sua eccezione. Segnaliamo inoltre che le indagini non sono ancora state dichiarate e chiuse in attesa di aggiornamenti. Lasciamo questo scritto e quindi aspettiamo ulteriori aggiornamenti, anche perché l'altra volta era uscito fuori che erano state chiuse le indagini, poi Elisa con un testo che ha mandato alla redazione, che è stato fatto girare, aveva detto che effettivamente le indagini non erano state chiuse, quindi aspettiamo anche una conferma da parte dei compagni indagati per l'operazione Ardire. Invece l'altra notizia riguarda un opuscolo che è arrivato proprio ieri alla mail di radiazione da parte di una mail firmata Natura Ribelle, in cui c'era un opuscolo da diffondere, consigli per un'azione in ambito naturale. Da radiazione si può scaricare l'opuscolo sia nella pagina download che sia sulla stessa home page, c'è il link Natura Ribelle in verde, ci cliccate sopra e vi potete scaricare l'opuscolo. Allora, leggiamo queste due righe che ci fanno avere i compagni che hanno fatto l'opuscolo. Qua si sta incendiando tutto, sta bruciando la sigaretta, le carte nel posacenere, quindi va bene. Allora, leggiamo queste due. La natura si ribella, anche la natura si ribella. La carta viene dagli alberi, quindi. Allora, Natura Ribelle è un piccolo opuscolo che dà qualche consiglio a chi volesse organizzare o partecipare a qualche azione diretta in ambito naturale. Speriamo possa essere utile per l'Internazionale Nera Viva l'Anarchia Natura Ribelle. E queste sono le due righe, poi a chi interessa se lo scarica oppure se lo può leggere anche online cliccando sul link e ne trae le proprie conclusioni. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Cubanet con il brano Except Disorder, e poi dopo si ritorna qui e si legge l'ultima parte del nuovo capitolo di I Sabotatori di Edward Ebbey. E poi dovete avere pazienza e ci risentiremo tra una settimana, perché comunque lunedì non ci sarà Marcello e nemmeno l'altro lunedì, quindi appena potremo recupereremo anche e faremo una sintesi delle puntate precedenti più ricca di quella di oggi, che era stata abbastanza vergognosa, quindi non esageriamo. Cubanet con il brano Exit Disorder e poi dopo l'ultima lettura per oggi di I Sabotatori di Edward Ebbey. We'll be right back. Allora, adesso abbiamo finito un capitolo, ne cominciamo un altro, il Ride al Comb Wash. E invito tutti i compagni e le compagne che ci stanno ascoltando, ne leggeremo l'incipit, ne leggeremo l'inizio, scaricatevi il podcast, sentitevelo e fra una settimana continueremo. 10 giorni. 10 giorni, giustamente. I preparativi furono accurati. Innanzitutto, su suggerimento del capitano Smith, nascosero delle provviste in diversi punti del campo d'operazione previsto, la regione dei Canyon, l'Utah sudorientale e l'Arizona settentrionale. Le scorte consistevano in 1. Cibarie, scatolame, carne secca, frutta, fagioli, latte in polvere, acqua potabile sigillata. 2. Attrezzature da campeggio, kit medici, incerate, mantelle, diavolina, mappe topografiche, bisogna saperle leggere, le mappe topografiche, soprattutto quelle militari, cerotti per vesciche, nastri sigillati, sacchi a pelo, borraccia, accessori per la caccia e la pesca, utensili da cucina, corde, nastri, corde di nylon. E 3. Ingredienti base, chiavi inglesi, piedi di porco, tagliafili, tagliabulloni, l'attrezzatura per scavare, sifoni, zucchero e sciroppi, petrolio e benzina, cunei d'acciaio, fondelli, spolette, micce a combustione lenta, spellafili, accendini per le spolette e qualità adeguate di DuPont Straight e DuPont Red Cross Extra sigarette. La maggior parte del lavoro se la sobbarcarono Smith e Aydak, a volte li assistevano il dottore e Miss Apzug, che arrivavano in volo da Albuquerque. Aydak fece resistenza per un po' di tempo alla presenza della ragazza. «Non voglio ragazze tra le palle», sbraitava. «Questo è un lavoro da uomini. Non parlare come un porco, come uno sbirro», redarguì Bonnie. «Buoni, buoni», intervenne il dottore. «Pace». «Pensavo che la cellula dovesse essere formata da 3 uomini», insistette Aydak, «senza ragazzine». «Io non sono una ragazzina», disse Bonnie. «Sono una donna cresciuta, ho 28 anni e mezzo». Seldon Sin Smith si teneva più o meno in disparte, sorridendo, grattandosi la pelura bionda sulla sua lunga guancia. «Ci eravamo messi d'accordo su 3 persone e basta», disse Aydak. «Lo so», spiegò il dottore, «e mi dispiace, ma voglio Bonnie con noi. Dove ci sono io c'è Bonnie, o viceversa. Senza di lei non funziona molto bene». «Ma che razza di uomo sei?» «Io sono un uomo dipendente», Aydak si girò verso Smith. «E tu che ne pensi?» «Beh», disse, «lo sai, a me la ragazzina piace, trovo piacevole averla intorno. Io direi di prenderla con noi». «E allora deve prestare il giuramento di sangue». «Io non sono una bambina», disse Bonnie, «mi rifiuto di prestare qualunque giuramento di sangue o di fare giochetti da bambini. Dovrete solo fidarvi di me. Se non vi fidate, vi porto dritti tutti quanti dritti davanti al Bureau of Land Management». «Ci tiene per le palle», disse Smith. «E niente volgarità», disse lei. «Testicoli», corresse lui. «Afferrali per i testicoli e i loro cuori e le loro menti seguiranno», disse il dottore. «Non mi piace», disse Aydak. «Comunque sei in minoranza», disse Bonnie. 3-1. «Non mi piace. Peace and love», disse il dottore. «Ti assicuro che lei ci tornerà molto utile». Il dottore ebbe l'ultima parola. Dopo tutto, era lui che avrebbe finanziato la campagna. Era lui l'angelo. L'angelo vendicatore, Aydak lo sapeva, e la spesa era notevole: $90 per un sacco a pelo decente, $40 per un buon paio di scarponi. Anche il prezzo dei fagioli pinto era salito a $1,96 al chilo. Finora, tuttavia, la spesa più grossa non aveva riguardato le scorte, ma semplicemente gli spostamenti per le immense ondulate e intricate distese del sud-ovest, con la benzina che andava dai 49 ai 55 cents per gallone, e un pneumatico nuovo, tassellatura rinforzata per lavoro pesante per il furgone che costava almeno $55 d'esemplare, più la tariffa aerea per il dottore e la sua Bonnie. $42,45 a testa solo per l'andata da Albuquerque a Page. Molte di queste spese potevano essere considerate come spese d'affari. deducibili dalla dichiarazione dei redditi da Smith, spedizioni oltre il limite la società. Ma anche così l'esborso iniziale era pesante. Il buon dottore forniva il contante che Smith raramente ha a disposizione e firmava la maggior parte degli assegni. Gli esplosivi, ovviamente, non erano materia su cui ragguagliare il fisco. Dog li avrebbe messi tra gli oneri deducibili come spese per le migliorie del ranch, per il piccolo paradiso fiscale di 90 ettari che possedeva sulle Manzano Mountains a est di Albuquerque, e come lavoro di valutazione su un gruppo di concessioni minerarie di cui era proprietario nella stessa area. Guanti! Disse Haida, guanti, senza guanti non faccio nessun sabotaggio. E così Doc portò a tutti e tre paia di guanti di pelle di daino di primissima qualità. Grasso snow seal per gli scarponi, e lui comprò il grasso. Armi leggere, no. Pistole, no. Burro d'arachidi, disse Bonnie. Pistole e burro d'arachidi, ruggì Haidak. Burro d'arachidi sì, pistole no. Abbiamo pure il diritto di difendere il culo. Niente pistole, Doc poteva essere testardo. Quei rotti in culo ci spareranno, niente violenza. Dovremmo rispondere al fuoco, nessuno spargimento di sangue. Il dottore era irremovibile. Haidak venne messo di nuovo in minoranza, di nuovo, da 3-1, e così per il resto del tempo tenne le sue armi nascoste meglio che poteva e si portò dietro soltanto un piccolo revolver custodito nella tasca interna del suo zaino. Comprò 6 scatole di burro d'arachidi biologico Death Meat, un prodotto non sbiancato e non idroneggiato ricavato dalle arachidi seccate al sole cresciute su un terreno concimato senza la collaborazione di erbicidi, pesticidi o agenti della contea. Seldon, Sin Smith, nessuna parentela con Death Smith e Haidak, distribuirono il burro d'arachidi strategicamente per il Colorado Plateau, un barattolo qui, un barattolo là, lungo il tragitto tra Onion Creek e Pacoon Spring, tra Packer Pass e Tin Cup Mesa, da Tavapaz nello Utah fino a Moencopie nell'Arizona. Burro d'arachidi scuro e nutriente. Una volta, all'inizio della campagna, mentre riempivano le loro taniche di benzina a una stazione di servizio, Doc stava per pagare con la sua carta di credito. Haidak lo spinse da parte. Niente carte di credito, disse. Niente carte di credito? Niente carte di credito del cazzo! Vuoi lasciare una documentazione completa del tuo passaggio lasciando una firma del cazzo ovunque mettiamo piede? Capisco, disse Doc. Naturalmente, pagare in contanti e lasciar perdere le carte di credito e non prestare attenzione al rullio di tamburi lontani. All'inizio in realtà non usarono esplosivi, né li rubarono o comprarono. Haidak premeva per un loro impiego immediato, energico e massiccio, ma gli altri si opponevano ai suoi progetti. Il dottore aveva un po' di timore della dinamite, suggeriva l'anarchia. E l'anarchia non è la risposta. Abzug sottolineò che i fuochi d'artificio di qualunque tipo erano considerati illegali in tutti gli stati sud-occidentali e aveva anche sentito dire che i detonatori possono far venire un tumore al cervello. Il dottore ricordò ad Haidak che l'uso di esplosivi per scopi illeciti, per quanto costruttivi, era considerato un reato grave, così come acquisiva un carattere federale ogni volta che vi erano coinvolti ponti e autostrade, mentre versare un po' di sciroppo di pittosporo nel serbatoio della benzina e sabbia o polvere di smeriglio nella coppa dell'oro di un autocarro a cassone ribaltabile era considerata una innocua infrazione non molto diversa da una ragazzata di Halloween. Diventò un dibattito sulle sottili, sofisticate tecniche di disturbo opposte al fragante e violento sabotaggio industriale. Haidak propugnava tutto quello che era flagrante e violento, gli altri no. Messo in minoranza come al solito, Haidak si arrabbiò consolandosi con l'idea che le cose si sarebbero fatte più grosse strada facendo, a ogni azione una reazione più forte, dal piccolo al grande, un'escalation. Dopotutto lui era un veterano del Vietnam, sapeva come funzionava il sistema, il tempo scadendo e incalzando con il trascorrere dei giorni, sarebbe stato, sì, dalla sua parte. Ogni nascondiglio per le provviste venne preparato con scrupolosa cura. Tutti i prodotti commestibili, potabili o altrimenti deteriorabili furono piazzati in bauletti di metallo. Gli attrezzi vennero affilati, oliati, inguainati o inscatolati, avvolti in teli. Tutto fu seppellito, quando possibile, o coperto alla meglio con pietre e arbusti. I siti vennero mimetizzati e le tracce spazzate con cespugli e rami frondosi. Nessun nascondiglio veniva considerato soddisfacente fino a che non superava l'ispezione di Hydack e di Smith, i consiglieri militari. Della banda delle volpi? Della banda delle lattine di birra? Dei vendicatori del deserto? Della banda degli zoccoli di legno? Non riuscivano nemmeno a mettersi d'accordo sul nome da darsi. La cricca del burro di arachidi, i Riders of the Purple Sage, giovani americani per la libertà, l'unione della temperanza delle donne cristiane, non ce la facevano. Chi comandava qui? Tutti comandiamo qui, dice Bonnie. Nessuno comanda qui, dice Doc. Un modo penoso di fare una rivoluzione del cazzo, si lamentava Hydack. L'ex sergente George Washington Hydack soffriva della mancanza di una gerarchia. «Pace, prego, paz vobiscum», disse Doc. Ma anche la sua eccitazione stava crescendo. «Sentite cosa accade, per esempio al nuovo University Medical Center da 50 milioni di dollari, in uno degli edifici scolastici in stile Bauhaus da 1 milione di dollari. L'edificio puzzava di cemento grezzo. Le finestre poche, lunghe e strette, sembravano feritoie di un fortino militare. Il sistema dell'aria condizionata era di ultimissima progettazione quando...» Il dottor Service entrò nell'aula dove quel giorno avrebbe dovuto tenere una lezione inquinamento industriale e malattie respiratorie e trovò l'aula surriscaldata, l'aria viziata. Gli studenti sembravano più addormentati del solito, ma per nulla preoccupati. «Ci vuole un po' d'aria qui dentro», protestò il dottore. Uno studente fece spallucce, gli altri assentirono con il movimento del capo. Era il sonno, non il consenso. Doc andò alla finestra più vicina e cercò di aprirla. Ma come? Non c'era nulla che somigliasse a una cerniera, un telaio, una serratura, una chiusura, una manovella o una maniglia. Ma come cazzo si apre questa finestra? Domandò allo studente più vicino. Non lo so, signore, rispose lo studente. Un altro disse che non si poteva aprire. Questo è un edificio con l'aria condizionata. Ebbene, se avessimo bisogno di aria, chiese il dottore calmo e ragionevole. In un edificio con l'aria condizionata si suppone che le finestre non debbano mai essere aperte, disse lo studente. Avrebbe complicato tutto. Capisco, disse Doc. Ma noi adesso abbiamo bisogno di aria fresca. All'esterno, sotto alla luce del sole, gli uccellini cantavano tra le forstie e fornicavano tra le ortensie. E che cosa dobbiamo fare? Domandò. «Credo che potrebbe lamentarsi con la direzione», disse un altro studente, un suggerimento sempre buono per una risata. «Capisco», disse il dottor Service, ancora calmo e ragionevole, camminò verso la scrivania di metallo vicino alla lavagna, afferrò la sedia di acciaio che era in attesa dietro la scrivania e, reggendola per lo schienale, mandò in frantumi il vetro della finestra, lo smantellò sistematicamente. Gli studenti osservarono in muta approvazione e quando ebbe terminato lo salutarono con un'ovazione entusiasta. Doc si fregò le mani. «Oggi salteremo l'appello», disse. E con questo ultimo inizio di un nuovo capitolo per quanto riguarda i sabotatori di Edward Ebbey, si chiude qui la diretta d'azione di oggi 10 aprile 2014. Lo ricordo, la prossima diretta d'azione è per lunedì prossimo 14, dove ci sarà controinformazione e musica per tutta la sera, cioè per tutta la sera, nelle due, sia per quella di lunedì 14 che il venerdì successivo. La lettura se ne parlerà dopo. No, vediamo, può darsi che facciamo una cosa speciale. Ci organizziamo, vediamo se riusciamo a fare una cosa speciale proprio per recuperare anche il giorno perso. Ricordo gli indirizzi utili per radiazione: radiazione@distici.org per la mail, per mandare comunicati consigli sui libri da leggere, critiche, complimenti, critiche, dai, mandate le critiche, è meglio, troviamo spunto dalle critiche. Invece per il sito è radiazione.org, dove potete leggere la controinformazione aggiornata quotidianamente, ascoltare la radio il lunedì e venerdì dalle ore 17, dove potete riascoltare anche i vecchi podcast attraverso la categoria ascolta le dirette d'azione. Radiazione trasmette sul server anarchia.net. messa a disposizione dal compagno di The Anarchist Library, che ringraziamo sempre perché ci ha cambiato la vita da quando ci siamo trasferiti di server. Vi lascio con un brano dei Biotech e l'appuntamento è per lunedì prossimo 14 con informazione e musica, e chi si offende è un fetente. People want paradise. The debt must be paid in blood. At the Queen's command. Taking flight. Taking flight. Frequenze di azioni in diretta. Frequenze di azioni in diretta. Radio azione Radio azione Radio azione Controinformazione, torture, promozioni, musica. Radio azione Frequenze di azioni in diretta. Radio azione Radio azione Radio azione Radio azione Controinformazione, torture, promozioni, musica. Radio azione Frequenze di azioni in diretta.